Viva l'Italia! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Luoghi d'Italia di Stefano Brambilla. Buongiorno e bentrovati a Luoghi d'Italia. Oggi non vi parliamo di una regione o di un'isola o di una valle, ma di una città, perché anche le città hanno i loro luoghi nascosti, i loro segreti celati tra le vie, le piazze, il traffico, il caos, lo stress. Per esempio, Bologna. Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte. Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita. Donna emiliana di zigomo forte, la cantava Guccini. Gli italiani la identificano in realtà con la dotta, la grassa, la rossa. Qualcuno che la definirebbe come la musicale? Probabilmente no. Eppure l'UNESCO ha dato un bel riconoscimento a Bologna come città creativa della musica, vero Enrico Tabellini? Assolutamente sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io la chiamerei assolutamente musicale, ma sono di parte, quindi non valgo forse. Enrico è bolognese, è responsabile della comunicazione per il Museo Internazionale della Musica, appunto di Bologna. Ci spiega un attimo perché Città Creativa della Musica, che cos'è questo riconoscimento che sinceramente noi non avevamo mai sentito? Allora, è un riconoscimento piuttosto importante che solo 5 città al mondo in questo momento hanno. Bologna, che di solito noi conosciamo per essere la città dei cantautori, dalla Guccini, Morandi, bolognesi o importati come anche Vasco, ed è la città anche dei luoghi, diciamo, pop, come la Trattoria Vito, in cui si poteva una volta, adesso non più, trovare spesso Guccini, o la pizzeria Altero, o i vari luoghi cantati. I luoghi mitici delle canzoni dei cantautori bolognesi. Le varie trattorie di fuori porta, visto che abbiamo citato Guccini all'inizio. In realtà però questa è una peculiarità molto italiana. Bologna infatti è stata nominata città della creativa della musica UNESCO per altri motivi che sono molto molto importanti nel panorama della musica, della storia della musica, possiamo dire dal 500 fino ai giorni nostri. C'è quindi tutta una tradizione musicale che accompagna Bologna nella storia. Assolutamente. E il Museo Internazionale della Musica è un punto cardine di questa, del racconto della storia musicale bolognese, giusto? Assolutamente sì, se si viene al museo si scopre perché appunto Bologna sia considerata così importante nel panorama internazionale. Il Museo della Musica contiene infatti una piccolissima selezione degli oltre 120.000 documenti musicali, quindi solo di musica, e parliamo di documenti musicali in senso lato, quindi ovviamente una bellissima collezione di strumenti musicali, ma soprattutto una incredibile biblioteca musicale, appunto siamo circa 120.000 volumi per capirci, solo di musica, quindi spartiti, partiture, libretti, libri teorici a stampa, importantissimi, conosciutissimi in tutto il mondo, ma spesso sconosciute anche agli stessi bolognesi, ahimè. Eh sì, purtroppo funziona sempre così. Ci fa qualche esempio dei pezzi più curiosi che conservate? Perché Bologna, uno viene subito in mente, non so, per esempio Rossini, però immagino che ci sia anche altro. Assolutamente, è che non lo sa nessuno. Intanto è molto curiosa la nascita di questa enorme collezione. Infatti la cosa più incredibile è che è stata messa assieme praticamente da un'unica persona nel corso della sua vita, un grandissimo bolognese, oggi semi sconosciuto, padre Giambattista Martini, che è stato uno dei più grandi, il primo enciclopedista della musica. Lui infatti ha scritto una storia della musica memorabile, ed era conosciutissimo nel Settecento. Lui nasce nel 1700 1906, muore nel 1784, era conosciutissimo perché era considerato, diciamo, il Google della musica dell'epoca, l'internet dell'epoca, poiché aveva a disposizione questo straordinario database musicale, questa erudizione incredibile, diremmo appunto enciclopedica, e così facendo, mettendo a disposizione appunto la sua erudizione, ha conosciuto tutti i più grandi musicisti del Settecento, tutti quelli che ancora noi oggi conosciamo, per fare loro lezioni o per dare loro consigli. Essere un allievo di Pademartini faceva parte del curriculum di qualsiasi grande musicista del Settecento, quindi lui praticamente è la classica montagna che va a Maometto, lui stava fermo e tutta l'Europa musicale è venuta a Bologna in quegli anni per fare lezioni con lui, e di esempi potrei farne tantissimi, potrei fare l'esempio di Gluck, di Rameau, di Tartini, di Johann Christian Bach e soprattutto di Mozart, che tra l'altro a cui è legata una storia curiosa, perché Mozart viene in Italia nel 1770, si ferma a Bologna nel corso del suo grand tour in giro per l'Italia, a Bologna deve fare un esame per entrare all'Accademia Filarmonica di Bologna, che esiste ancora oggi dal 1666, ma questo esame va malissimo perché gli viene chiesto di scrivere un brano in stile gregoriano. Mozart di gregoriano non sa assolutamente niente, avrebbe dovuto essere bocciato, invece è stato promosso perché molto probabilmente c'è stato lo zampino di Pademartini, il quale praticamente ha rifatto il compito al giovane Mozart per farlo promuovere. Anche i piccoli geni venivano aiutati al tempo. Il Museo della Musica, ricordiamo, si trova in via Strada Maggiore al 34, andatelo a visitare, conserva non soltanto documenti di Mozart ma molto altro. Tabellini, chiudiamo un attimo parlando di qualcos'altro che a Bologna si può collegare alla musica che può essere meritevole di una visita? Assolutamente, non potrei ricordare appunto il primo spartito stampato della storia, sempre al Museo della Musica, 1501, di cui esiste una sola copia al mondo, a Bologna e solo a Bologna, il manoscritto originale del Barbiere di Siviglia, visto che parlavamo di Rossini, e l'avevamo citato all'inizio, è a Bologna. Tutti i ritratti dei musicisti più famosi del Settecento e dell'Ottocento sono tutti a Bologna, non dimentichiamo San Petronio e la sua incredibile tradizione musicale, la tradizione dei teatri bolognesi, il teatro comunale dal 1763 sempre rivolto all'estero e alle novità, il teatro Manzoni per la musica sinfonica, la scena jazz importantissima. E ci fermiamo qui perché ne abbiamo dette veramente tante. Ringraziamo Enrico Tabellini, invitiamo ancora ad andare a vedere il Museo della Musica, gli auguriamo una buona giornata. Arrivederci. Un piacere, arrivederci. Lungo l'autostrada da lontano ti vedrò, eccola le luci di San Luca, entrando dentro il centro l'auto si rovina un po', Bologna. Ogni strada c'è una buca. Per prima cosa mangio una pizza d'altero. C'è un barista buffo, un tipo nero. Bologna, sai, mi sei mancata un casino. Abbiamo parlato di Bologna la musicale, dai cantautori moderni ai compositori antichi, da Mozart fino ad Alla. Adesso andiamo a vedere un altro aspetto di Bologna che rimane un po' dietro le quinte, ed è un aspetto legato questa volta ai monumenti. Ne parliamo con Amilcare Grana. Buongiorno Grana. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Amilcare Grana è console per il Touring Club Italiano di Bologna ed ex coordinatore dei volontari di Bologna. Adesso andiamo a spiegare chi sono questi volontari. Grana, ci sono due monumenti a Bologna che il Touring Club Italiano ha aiutato a riaprire, vale a dire a mostrare al pubblico. Diciamo qualcosa su questi due monumenti, che cosa sono e dove sono soprattutto? Certo. I due monumenti sono le stanze Zambeccari, che fanno parte del Palazzo Pepoli Campogrande, centralissimo, e un monumento periferico, in quanto sorge sulla collina d'Osservanza, ed è la cosiddetta rotonda Cappella della Madonna del Monte, appunto sul Colle dell'Osservanza. Ecco, questi due monumenti erano fino a poco tempo fa chiusi al pubblico, nel senso che nessuno poteva andarli a vedere, giusto? Per quanto riguarda la Madonna del Monte, sicuramente, cioè si, diciamo, qualche bolognese ha avuto occasione di assistere a funzioni religiose, ma è stato veramente fortunato, perché è successo molto di rado che venisse aperta la cappella negli ultimi decenni. E, per quanto riguarda Pepoli Campogrande, che è una sede distaccata della Pinacoteca Nazionale, era aperta al pubblico, però con orari molto limitati. Orari limitati che il Touring Club Italiano, col suo programma Aperti per Voi, ha contribuito ad ampliare. Grana, diciamo due parole: perché vale la pena di aprire questi monumenti al pubblico e di andarli a vedere poi? La Madonna del Monte è forse il monumento del Medioevo e, se vogliamo, romanico più rappresentativo della città, quindi per questo è proprio importante che i cittadini abbiano potuto rivederlo, rimetterci piede. Fu fondata all'inizio del 1100, fu inglobata praticamente nella villa Aldini, costruita nel 1805 dal nobile Aldini, appunto, che acconsentendo a un desiderio in un certo senso di Napoleone, costruì qui questa villa neoclassica dalla quale si godeva un paesaggio molto bello, un paesaggio favoloso della città e della pianura. Quindi una chiesetta romanica con una villa neoclassica su un colle con il panorama di Bologna, questo per fare un po' il quadro della situazione. Esatto. Panorama che è stato ripristinato recentissimamente con una potatura scelta, curata, selezionata, perché la vegetazione aveva ricoperto appunto la visuale. Questo per Villa Aldini. Invece il Palazzo Pepoli Campogrande ci diceva che è un distaccamento della Pinacoteca di Bologna, quindi ci sono dei dipinti importanti dentro. Beh, diciamo che già il palazzo in sé è esemplare. È un palazzo costruito nel corso del 1600 da questa famiglia Pepoli, costruito proprio di fronte al cosiddetto Palazzo Pepoli Vecchio, sempre nella centralissima via Castiglione, a 50 metri dalle due torri. E nella seconda metà del Seicento, appunto, la famiglia, per la propria cresciuta potenza, decise che serviva un palazzo più moderno. Fu costruito, la costruzione terminò all'inizio del Settecento e, diciamo, facciamo veramente un passo indietro nel tempo, perché varcato il portone del museo, ma di queste stanze che sono un vero e proprio appartamento, ci troviamo immersi in questi saloni affrescati appunto nella seconda metà del Seicento, con diversi artisti di diverse scuole di pittura, e saloni affrescati, quindi torniamo a quello che vedevano allora i proprietari di loro ospiti. Poi la Pinacoteca ha arricchito queste sale anche di dipinti e è anche sede di mostre, di esposizioni di vario tipo. Ecco, quindi se oltre a San Petronio, alle torri e a tutte le bellezze di Bologna e portici volete vedere qualcosa di diverso, questi due monumenti sono il pretesto ideale per sfuggire un po' alle masse turistiche. E gli orari li trovate sul sito www.touringclub.it, Touring Club, perché, come dicevamo prima, l'iniziativa è Aperti per Voi. Ci dice qualcosa su questi Aperti per Voi? Chi sono i volontari che poi aprono fisicamente questi monumenti al pubblico? I volontari sono innanzitutto soci Touring, perché è nata proprio come iniziativa con la quale il Touring vuole fare qualcosa di concreto, di mettere a disposizione questa passione per l'arte, per la propria storia, le proprie radici di tanti soci, di mettere a disposizione concretamente, garantendo l'apertura o aiutando ad ampliare l'apertura di siti che diversamente sarebbero stati poco accessibili o addirittura chiusi. Non c'è solo Bologna nell'elenco delle città e dei luoghi in cui opera Aperti per Voi, ma sono 8 le diverse città italiane, 15 luoghi solitamente chiusi al pubblico, e i volontari credo oggi sono circa 450. Come si fa a diventare volontario? Si aderisce alla proposta o del Touring direttamente, se si è soci si legge dalla rivista, da qui Touring, oppure dalle visite guidate che vengono fatte se ne viene a conoscenza, oppure anche facendo una visita. Noi abbiamo avuto una piccola ma importante leva di nuovi volontari che sono proprio visitatori che, saputo dell'apertura di questi due siti, sono entrati, hanno apprezzato, hanno chiesto appunto chi eravamo e come si poteva diventare a loro volta volontari. Un piccolo contributo per fare qualcosa per la propria città e per, e per i turisti che la vengono a vedere. Amilcare Granda, la ringraziamo per essere stato con noi e le auguriamo buona giornata. Arrivederci. Buona giornata a voi. A Bologna i portici tengono in piedi le case. Musica e arte, speriamo di avervi fatto conoscere una Bologna un po' diversa oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo una buona giornata alla prossima puntata.